Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Il signor Beebe aveva la sensazione che gli Emerson si fossero notevolmente afflusciati. Avevano rinunciato al tentativo, se tentativo c'era stato, di conquistare la buona società. E ora il padre era quasi taciturno quanto il figlio. Egli rifletté se non fosse il caso di organizzare una giornata piacevole per loro, prima che partissero. Una gita, perché no, con Lucy sciapernata a dovere, in modo da consentirle di trattarli affabilmente. Provvedere il suo prossimo di ricordi felici era una delle precipue soddisfazioni del signor Beebe. Mentre conversavano si avvicinava la sera. L'aria divenne più limpida, si purificarono le tinte degli alberi e delle colline. L'Arno perse la sua compattezza melmosa e cominciò a scintillare. Si videro alcune striature d'un verde cilestrino in mezzo alle nuvole, alcune chiazze di luce acquosa sulla terra, poi la facciata grondante di San Miniato rifulse in tutta la sua lucentezza nel sole prossimo al tramonto. «Troppo tardi per andare fuori», osservò la signorina Alan in tono di sollievo. «Tutti i musei sono chiusi». «Io sto meditando di uscire», disse Lucy. «Vorrei girare intorno alla città nel tram di circonvallazione, sulla piattaforma accanto al conducente». I suoi compagni fecero la faccia seria. Il signor Beebe, che in assenza della signorina Bartlett si sentiva responsabile della ragazza, si arrischiò a rispondere «Magari lo potessimo». «Disgraziatamente ho da scrivere delle lettere. Se proprio desidera uscire sola, non sarebbe meglio che andasse a piedi?» «Gli italiani, mia cara, lei capisce», disse la signorina Alan. «Forse incontrerò qualcuno capace di leggermi dentro fino in fondo». Gli altri, però, continuavano a esprimere tacitamente la loro disapprovazione. E Lucy si decise ad accontentare il signor Beebe, ma solo fino a un certo punto. Disse, cioè, che avrebbe fatto appena un giretto, sempre restando nelle strade frequentate dai turisti. «Veramente», fu il commento del signor Beebe, mentre la osservavano dalla finestra, «non avrebbe dovuto uscire neanche per un giretto, e lo sa. Io me lo spiego così. Troppo Beethoven». Il signor Beebe aveva ragione. Lucy non capiva mai chiaramente quello che desiderava se non dopo che aveva smesso di suonare. In realtà non le erano piaciuti né lo spirito dell'ecclesiastico né il cinguettio allusivo della signorina Alan. La conversazione la infastidiva, aspirava a cose grandi, lei, e credeva che in una di queste cose si sarebbe imbattuta sulla piattaforma ventosa di un tram elettrico. Questa aspirazione, peraltro, non poteva tentare di attuarla. Non si addiceva a una vera signora. Perché? Perché a una vera signora non si addicono quasi mai le cose grandi? Il perché glielo aveva spiegato un giorno Charlotte. Non già che le donne fossero inferiori agli uomini, erano semplicemente diverse. La loro missione consisteva nell'infondere in altri la volontà di operare piuttosto che nel mettersi a operare di persona. Indirettamente, aveva proseguito la signorina Bartlett, grazie al tatto e a un nome immacolato, una donna può concludere parecchio, ma se si getta anche lei nella mischia, prima sarà criticata, poi disprezzata, e finalmente ignorata. Per illustrare quell'assioma erano state scritte addirittura delle poesie. Lucy quel pomeriggio era eccezionalmente irrequieta. Aveva davvero una gran voglia di fare qualcosa che i suoi protettori avrebbero disapprovato. E siccome non poteva prendere il tram elettrico, andò al negozio di Alinari. Comprò una riproduzione fotografica della nascita di Venere del Botticelli. Venere, che peccato! Sciupava il quadro per altri versi così squisito e la signorina Bartlett l'aveva convinta a rinunziarvi. Che peccato, in arte, significa ovviamente il nudo. Lucy vi aggiunse la tempesta di Giorgione, l'Idolino, alcuni affreschi della Sistina e l'Apoxiomenos. Dopodiché si sentì un po' più calma e comprò l'Incoronazione del Beato Angelico, l'Ascensione di San Giovanni di Giotto, alcuni putti robbiani e alcune Madonne di Guido Reni. Lucy era infatti di gusti eclettici e accordava indistintamente la sua approvazione critica a tutti i nomi ben noti. Ma quantunque spendesse quasi 7 lire, sembrava che le porte della libertà restassero tuttora sbarrate. Lucy era cosciente del suo malcontento, ed esserne cosciente Fu una novità per lei. Il mondo è certo pieno di belle cose, pensò. Se almeno mi capitasse di incontrarle. Non c'era da stupirsi che la signorina Honeychurch trovasse da ridire sulla musica, sostenendo che le riconsegnava una figlia bisbetica, sprovveduta e permalosa. «Non mi succede mai nulla», rifletté Lucy mentre entrava in piazza della signoria e lanciava un'occhiata distratta alle sue meraviglie, con le quali aveva ormai una certa familiarità. La grande piazza era immersa nell'ombra. Il sole era arrivato troppo tardi per invaderla. Nettuno appariva già immateriale nel crepuscolo, semidio, semispettro, e la sua fontana zampillava sognante verso gli uomini e i satiri che oziavano insieme sull'orlo della vasca. La loggia dei Lanzi si stagliava come il triplice ingresso di una caverna nel cui interno abitavano varie divinità, nebulose ma immortali, che presiedevano dall'alto ad arrivi e partenze del genere umano. Era l'ora dell'irrealtà, l'ora, vale a dire, in cui sono reali le cose inconsuete. Una persona più anziana in un momento e in un luogo siffatti potrebbe dirsi che le sta succedendo qualcosa, che questo qualcosa è sufficiente ed esserne paga. Lucy desiderava di più. Fissò con sguardo struggente la torre del palazzo che emergeva dalla penombra inferiore simile a un pilastro d'oro scabro. Non sembrava più una torre, una mole sorretta dalla terra, ma un qualche tesoro irraggiungibile che palpitasse nel cielo tranquillo. Il suo splendore la magnetizzò e ancora le tremolava davanti agli occhi quando li chinò al suolo e si incamminò sulla via del ritorno. Ed ecco che qualcosa successe davvero. Davanti alla loggia due italiani stavano litigando già da un po' di tempo a motivo di un debito. «Cinque lire!» gridavano. «Cinque lire!» Vennero alle mani. Uno fu colpito leggermente al petto. Si accigliò, si sporse verso Lucy con un'occhiata d'intesa, quasi avesse da comunicarle un messaggio importante. Dischiuse le labbra per formularlo e un fiotto di rosso ne scaturì e sgocciolò fra gli ispidi peli del mento. Questo fu tutto. Dal crepuscolo sbucò una folla che nascose quell'uomo straordinario alla vista di Lucy e lo trasportò fino alla fontana. Caso volle che George Emerson si trovasse a pochi passi di distanza da lei e che la stesse osservando al di là del punto in cui l'uomo era stato ferito. Strano, stranissimo, al di là di qualcosa. E proprio mentre Lucy lo scorgeva, lui si andava offuscando. Si offuscò il palazzo medesimo, ondeggiò sopra a lei. Le cadde addosso piano piano, poco a poco, senza rumore. E il cielo cadde simultaneamente. «Che ho mai fatto?» pensò. «Ah, che ho mai fatto?» disse in un sussurro e aprì gli occhi. George Emerson continuava a osservarla, ma non era al di là di qualcosa. Lucy si era lagnata di monotonia e ora... Miracolo! Un uomo era stato pugnalato, un altro la teneva fra le braccia. Sedevano sui gradini del loggiato degli Uffizi. Lui doveva averla trasportata fin lì. Quando Lucy parlò, si alzò in piedi e si mise a spazzolarsi i ginocchi. Lucy ripeté, «Che ho mai fatto?» «È svenuta?» «Oh, mi dispiace tanto.» «Come si sente adesso?» «Benissimo, gliel'assicuro.» Lucy annuì ripetutamente e sorrise. «Allora torniamo alla pensione. Non abbiamo motivo di trattenerci.» George Emerson stese la mano per tirarla su. Lucy finse di non accorgersi del gesto. Gli urli provenienti dalla fontana, non erano cessati un istante, risuonavano a vuoto. Il mondo intero sembrava pallido e privo del suo significato originale. «Lei è stato infinitamente buono con me. Potevo farmi male quando sono caduta, ma ora sto bene, grazie, sono capace di andare via da sola.» La mano di lui era sempre protesa. «Oh, le mie fotografie!» esclamò Lucy a un tratto. «Quali fotografie?» «Avevo comprato alcune riproduzioni da Alinari. Si vede che mi sono scivolate di mano nella piazza.» Gli diede un'occhiata circospetta. «Permette che abusi della sua gentilezza, pregandola di cercarmele?» Emerson permise che abusasse della sua gentilezza. Appena le ebbe voltato le spalle, Lucy si alzò di scatto con l'astuzia di un maniaco e se la batté sotto il loggiato verso l'Arno. «Signorina Honeychurch!» Lucy si fermò con la mano sul cuore. «Rimanga qua. Non è in condizione di andarsene sola.» Sì, che lo sono, e grazie mille. No, che non lo è, altrimenti non se ne andrebbe di nascosto. Ma preferisco, allora rinuncio a cercarle le fotografie. Preferisco star sola. Quell'uomo è morto, disse George Emerson in tono autoritario. Probabilmente è morto. Si rimetta a sedere e si riposi. Lei, sbigottita, ubbidì. E non si muova finché non torno. In lontananza Lucy vide delle creature in cappuccio nero, quali appaiono nei sogni. La torre di Palazzo Vecchio aveva perso il riverbero della luce calante e si era riunita alla terra. Con quali parole avrebbe accolto George Emerson quando fosse tornato dalla piazza immersa nell'ombra? Le si riaffacciò alla mente il pensiero: ah, che ho mai fatto? Il pensiero che lei e anche l'uomo morente avevano varcato qualche confine spirituale. Emerson ritornò e Lucy parlò del delitto. Strano a dirsi, fu un argomento spontaneo. Parlò del carattere degli italiani, divenne quasi loquace nel trattare dell'incidente che aveva provocato il suo svenimento 5 minuti prima. E siccome era fisicamente forte, sormontò in breve tempo l'orrore del sangue. Si alzò senza l'aiuto del compagno e, malgrado le paresse di avere dentro un battito d'ali, si incamminò con passo sufficientemente fermo verso l'Arno. Quando vi furono arrivati, un fiaccheraio li invitò a salire in carrozza con un cenno. Rifiutarono. E l'assassino ha tentato di baciarlo, lei dice. Come sono bizzarri gli italiani. E si è costituito la polizia. Il signor Bibb spiegava poco fa che gli italiani sanno sempre tutto, ma io credo che siano piuttosto infantili. Ieri, mentre mia cugina e io eravamo a Pitti, che cos'era? Emerson aveva gettato qualcosa nel fiume. Cos'è che ha buttato in acqua? Roba che non mi interessava, disse ruvidamente il giovane. Signor Emerson, beh? Dove sono le fotografie? Non ebbe risposta. Se non sbaglio, erano proprio le mie fotografie che lei ha gettato in Arno. Non sapevo che farne, gridò George Emerson, e la sua voce fu quella di un ragazzo trepidante. Per la prima volta il cuore di Lucy ebbe uno slancio di tenerezza verso di lui. Erano tutte coperte di sangue, ecco, sono contento di averglielo detto. E mentre discorrevamo, non ho smesso un momento di chiedermi cosa dovevo farne. E indicò l'acqua che correva a valle. Sono scomparse. Il fiume vorticava sotto il ponte. Mi davano tanto pensiero e siamo tutti così sciocchi a volte. Mi è parso meglio che andassero a finire nel mare. Insomma, non so, forse voglio solo dire che ne ho avuto paura. A questo punto il ragazzo sconfinò nell'uomo. Perché è accaduta una cosa tremenda. Devo affrontarla senza che mi si confondano le idee. Non c'entra semplicemente la morte di uno sconosciuto. Un non so che ammonì Lucy che era necessario interromperlo. È accaduta, ripeté George Emerson, e intendo scoprire di che si tratta. Signor Emerson, il giovane si girò verso di lei corrugando la fronte, come se lo avesse disturbato in qualche indagine astratta. Vorrei farle una domanda, prima che entriamo. Erano vicini alla pensione. Lucy si fermò e appoggiò i gomiti sulla spalletta dell'argine. Emerson fece lo stesso. In certi momenti esiste una magia nell'identità della posizione di due corpi. È una delle cose che ci hanno suggerito il concetto del cameratismo eterno. Lucy tolse i gomiti dalla spalletta prima di proseguire. Mi sono comportata in maniera ridicola. Emerson seguiva il corso dei suoi pensieri. Non mi sono mai vergognata di me in vita mia come oggi. Non riesco a capire che cosa mi è successo. Ci è mancato poco che non svenissi anch'io, disse lui. Ma Lucy intuì che il proprio atteggiamento gli ripugnava. Ebbene, le debbo 1.000 scuse. Oh, lasci perdere. E poi, questo conta sul serio, lei sa quanto è pettegola la gente stupida, soprattutto le donne, purtroppo. Capisce cosa voglio dire? Non credo. Ecco, posso pregarla di non raccontarlo a nessuno come è stata sciocca la mia condotta? La sua condotta? Ah, sì, va bene. Va bene. La ringrazio tanto. E posso pregarla? Lucy non ebbe modo di specificare ulteriormente la richiesta. Il fiume trascorreva impetuoso sotto a loro, quasi nero nella notte imminente. George Emerson vi aveva gettato dentro le sue fotografie e poi gliene aveva rivelato il motivo. La colpì l'idea che non sarebbe servito a nulla ricercare la cavalleria in un uomo di quella specie. Non l'avrebbe danneggiata con chiacchiere oziose. Era fidato, intelligente, perfino buono. Poteva anche darsi che avesse un'alta stima di lei. ma la cavalleria gli faceva difetto. I suoi pensieri, come il suo contegno, non sarebbero stati modificati dalla soggezione. Inutile dirgli «e posso pregarla» e sperare che terminasse la frase da sé solo, distogliendo gli occhi dalla sua nudità sull'esempio del cavaliere in quel bel quadro. L'aveva tenuta fra le braccia e se ne ricordava, proprio come si ricordava del sangue sulle fotografie che lei aveva comprato da Alinari. Non c'entrava semplicemente la morte di un uomo. Era accaduto qualcosa ai vivi. Erano arrivati allo stadio in cui si manifesta il carattere e in cui la fanciullezza imbocca i sentieri divergenti della gioventù. «Dunque, la ringrazio tanto», ripete Lucy. «Come avvengono rapidamente questi incidenti e poi la solita vita?» «Io no». L'ansia la indusse a chiedergli spiegazioni. La risposta fu sconcertante. «D'ora in poi è probabile che voglia vivere». «Ma perché, signor Emerson? Che significa questo?» «Vorrò vivere», dico. Lucy riappoggiò i gomiti sulla spalletta e si mise a contemplare l'Arno, il cui ruggito le proponeva all'orecchio una qualche melodia inaspettata. Un proverbio coniato in famiglia diceva «Non si sa mai come la prenderà Charlotte». La signorina Bartlett ascoltò il racconto dell'avventura di Lucy con estremo buonsenso e buonomia. Ne giudicò soddisfacente la versione ridotta e rese il debito omaggio alla cortesia del signor George Emerson. Anche lei e la signorina Levish avevano avuto un'avventura. Sulla via del ritorno erano state fermate al dazio e i giovani gabellieri, rivelatisi insolenti, avevano tentato di perquisire le loro reticelle delle provviste. La situazione aveva rischiato di diventare sgradevolissima. Per fortuna la signorina Levish era capace di tenere testa a chi che sia. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.